di là. Lista fratello Siria, lista non hai carisma, di testi brutti ne hai una risma. Ti auguri che fa lista, spero che tu capisca che alla fine del disco ti servirà una analista. Il tuo flow mira trista, che Dio t'assista. Il mio acquista punti mentre va come un tassista. Più lo dimostro più ti si annebbia la vista. Tu fuori posto come un nazista, un bar mitzvah. Ti fa bene al corpo, all'anima come un medicinale. È una lamina, taglia a fondo il tuo privé digitale. Non mi nascondo, fra non ti rimane che digitare. Ti basta un anno a 16 e parti a febbricitare. Connesso con il toro, pizze coi guantoni d'oro. Rap proibito, ti passo un mojito con il coro. Io domani faccio uscire un disco che è un capolavoro. Tu domani torni a leccare il culo al capolavoro. On the scene, con un flow che può decapitare. Sul beat spezzo gli MC, si può capitare. One mic con i nuovi king della capitale. Così fresh e così clean che ti ci puoi specchiare. Hai capito il senso? Ti puoi rispecchiare. Non c'è verso, più ci penso, più mi sento male. Se mi scrivi contro un testo, stanne certo che ti so insultare. La clean version del pezzo resta la strumentale. Mi prende male, compare, ma se serve per scindere il reale da ste farse di rapper, lo faccio anche senza pare. Spezzo il filo che regge il personaggio dall'uomo. Tu ci vai sotto come Heath Ledger. Ah, il mio stile wannabe, il tuo stile wannabe. Mollami, white nigga. La mia squadra flippa come Radiga. Ma davvero, mentalità da impero come fa Giga. Ne ho visti troppi fake ass. Ora se mi scrivi nella mail faccio un fail test. Tu vuoi fare il rapper, sembri uno dei tech dead. Quando arriva Madden con il rap, hey, that's good man. Ti atteggi da fallito, mai commesso un brutto straccio. T'abbiamo dato il dito, ti sei preso tutto il braccio. Al contrario di te, ho rap a tutto raggio. A te per fare il rap ti serve un tutoraggio. Ti prendiamo come primo ostaggio in cabina di pilotaggio. Da Torino a Roma come Dino Baggio. Se ti fingi ammiratore con tattiche di spionaggio, mi spaccio per minatore con l'arte del picconaggio. Non per nominare Cossiga, tu fai il presidente ma non pensi niente, è il depostiga. Vuoi imparare come si rappa da me, brostica? Rinasci nell'antico Egitto, chiedi a uno scriba. Nel 2005 ho fatto rap tecnico, in sotto la cintura. Ho messo più incastri nel Kama Sutra. Ora parlo della mia vita con disinvoltura. Ogni strofa è una bomba senza la sicura. Per questo quando rappo mi fate i cori, mandate cuori. E nel prossimo disco avrò sempre le rime migliori. Tu eri bravo ma hai fatto una brutta fine, Beppe Signori. Flow one mic, ho tanta classe che non firmo per la major, ma per il Real Madrid. Sfondo il beat, spingi in macchina sta traccia e dopo ti si gira come Tokyo Drift. Torino e Roma, sappiamo come suona. Di questa musica sono un'icona. Quindi rimo, ti benedico e ti metto all'angolo. Nel nome del padre, del figlio e di faccia d'angelo. Big up one mic, MC Ryan, bella pure per Age. Sai così, Roma-Torino, mega connection. Me ne aspetto altro.